Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Non venite in Europa dopo il piano per la crisi umanitaria per i migranti, varato ieri dalla Commissione europea, oggi l'appello con il presidente del Consiglio europeo Tusk, che è ad Atene. Non venite in Europa. Più chiaro di così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk non poteva esserlo. Su Twitter, poco dopo l'incontro con il primo ministro greco Tsipras ad Atene, il presidente del Consiglio europeo ha scritto un appello ai migranti economici potenzialmente illegali. Non venite in Europa, non date retta ai contrabbandieri, nessun paese europeo sarà un paese di transito, ha scritto Tusk, che ad Atene ha dichiarato che le decisioni unilaterali sulla gestione dei migranti ledono la solidarietà europea. Ma ha anche difeso l'uso delle barriere di filo spinato, sottolineando che la messa in sicurezza dei confini esterni dell'area Schengen in Europa è una precondizione per risolvere la crisi. Atene è la penultima tappa della missione sulla rotta balcanica di Tusk. Domani sarà ad Ankara per preparare il vertice Europa-Turchia del 7 marzo a Bruxelles. E da Atene ha parlato anche il premier greco Tsipras. Ma διαχειριστεί τα κοινά προβλήματα και το κοινό μέλλον. Tsipras ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con il collega turco Davutoglu, incentrato sulla gestione dei flussi migratori verso l'Europa, anche questo in vista del 7 marzo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Schengen è la pietra angolare dell'integrazione europea e del buon funzionamento della nostra economia, e danneggiarlo bloccherà il funzionamento del mercato interno e ridurrà il benessere. È il monito lanciato intanto dalla presidente degli industriali europei Emma Marcegaglia all'evento annuale di Business Europe a Bruxelles, sottolineando che ripristinare Schengen e assicurare le frontiere aperte e la libera circolazione è una priorità chiave degli industriali in Europa. E Commissione europea, che ha approvato oggi l'accordo per il gasdotto destinato a collegare la Grecia all'Italia. Accordo tra Atene e la Trans-Adriatic Pipeline, un progetto che, spiega Margaret Vestager, commissaria alla concorrenza, migliora la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel sud-est Europa in osservanza delle regole senza distorcere la concorrenza e il mercato. Boom di domande e brevetti in Italia nel 2015, crescita record del 9% rispetto al 2014, pari al maggior incremento negli ultimi 10 anni. Risale il paese dall'11ª alla 10ª posizione nella classifica delle richieste totali. Sono i dati annuali dell'EPO, l'ufficio brevetti europeo. La regione italiana più innovatrice, la Lombardia, il settore in maggior crescita, quello dell'informatica. Così il presidente dell'EPO, Benoît Battistini, al microfono di Anna Marino. Il 2015 è stato davvero un grande anno per l'Italia. Le richieste di brevetti ad European Patent Office provenienti dall'Italia sono cresciute del 9% in rapporto al 2014, ovvero ad un tasso doppio rispetto alla media, che è del più 4,8%. Per il vostro paese, numero uno in termini di crescita, il dato rappresenta il maggior incremento percentuale dell'ultima decade. In termini di volume, è al sesto posto dopo Germania, Francia, Olanda e Regno Unito. L'Italia è risalita dall'11esimo al 10° posto tra i paesi europei. In termini di volume, è sicuramente la Germania in testa, poi la Francia, ma in termini di numero di richieste per abitante, in testa è l'Olanda e poi paesi scandinavi, Svezia, Finlandia e Danimarca. Tra i settori, quali sono quelli più innovativi e tra le imprese quali innovano di più in Europa e in Italia? All'interno dei 10 settori tecnologicamente più importanti presso IPO, le domande italiane di brevetti hanno registrato la crescita maggiore per quanto riguarda informatica, con un boom del 76% in più, poi comunicazione digitale, farmaceutica e sistemi di misurazione. Per l'Italia, in termini di soggetti che presentano domanda, sono Indesit, Fiat e ST Microelectronics le prime tre società italiane per numero di brevetti richiesti. E ancora un saluto da Anna Migliorati. Vi ricordo, l'Europa torna questa sera, Youzone a Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.